ahimè i Spaesati parla di un tema molto molto stringente, e stringente anche qui e adesso. Questo documentario è stato girato in Bangladesh e parla degli effetti del cambiamento climatico. Gli Spaesati sono le persone che cambiano paese, nel senso non tanto che emigrano all'estero, anche se in Italia c'è la seconda più grande comunità di bangladesi del mondo, ma emigrano anche all'interno del loro paese. Perché? Perché l'acqua li porta via i villaggi, le piene crescenti dei fiumi che sono sempre arrivate in Bangladesh, ma che adesso arrivano con una frequenza inaspettata e con una magnitudo inaspettata. Da un lato, a nord, sotto l'Himalaya, aumenta, diciamo, la portata dei fiumi, e aumenta non solo durante la stagione delle piogge, e dall'altro invece nel Golfo del Bengala aumenta il numero di uragani, tempeste, cicloni, e il mare avanza salinizzando i fiumi e quindi rendendo più difficile l'agricoltura, eccetera. Quindi un paese che è un presagio, diciamo, guardandolo ci possiamo fare un po' l'idea di come potremmo stare noi tra un po' se non ci sbrighiamo ad agire contro il cambiamento climatico. Verrebbe da dire, purtroppo tutto il mondo è paese per quanto riguarda il cambiamento climatico. Voi raccontate proprio storie di persone. Noi raccontiamo solo storie di persone, sono solo voci quelle che animano il documentario, nel senso noi non parliamo, non ci si vede, eccetera, ma parlano esclusivamente contadini e o ex contadini finiti negli slum di Dhaka, la capitale del Bangladesh, perché hanno storie di case portate via dall'acqua, che hanno storie di debiti, contratti, e che poi non sono riusciti a pagare perché il loro raccolto di riso è andato sott'acqua. Sono tutte storie così, accompagnate da un'intervista ad Amitav Ghosh, lo scrittore di origine indiana, che in realtà è di origine del Bangladesh, la sua famiglia era del Bangladesh e che vive negli Stati Uniti oggi, che spesso scrive i temi ambientali e che ci aiuta a, come dice, scandisce un po' questo documentario e le immagini che invece abbiamo girato in Bangladesh. Pensate che il taglio sulle storie delle persone possano aiutare ancora di più a sensibilizzare su questo tema, a immedesimarsi, visto che appunto non è un'ipotesi poi così remota che quei disastri si producano anche da noi. Da un lato, ahimè, il documentario va in onda in un momento perfetto, no? Nel senso che purtroppo anche qui abbiamo i primi morti registrati, probabilmente ce ne sono anche stati altri, no? Ma in questa volta qui abbiamo la prima strage da ambiente, e questo è una cosa che io mi auguro che almeno serva a metterci in testa che questa è la priorità assoluta. Dall'altro però sì, la nostra idea, andando lì, e parlo anche per me stesso, cioè andare lì e vedere uno che ti indica il punto più lontano in mezzo al fiume e ti dice la mia casa era lì, e non era lì 25 anni fa, era lì 2 anni fa, questa cosa qui ti dovrebbe un po' aprire gli occhi, se non te l'ha aperto il ghiaccio che scende dalla marmolata. Insomma, la somma di tutte queste cose ci dice che questa è la notizia, la questione sulla quale lavorare e dalla quale essere per certi aspetti ossessionati invece di discutere di con quale coalizione si andrà alle prossime elezioni, piuttosto che non dei giovani che non vogliono lavorare perché hanno il reddito di cittadinanza, ecco. Cambiamenti climatici, ma anche migrazioni, perché appunto il tema delle migrazioni climatiche sarà sempre più forte. Io, vista la portata anche del vostro lavoro, i temi di cui si occupa, ti volevo fare una domanda invece su come l'emergenza siccità viene raccontata nel nostro paese, perché si sprecano, diciamo così, i consigli su come ridurre i consumi domestici, e sono cose sacrosante. La sensazione, non so se la condividi, è che, come dire, non ci sia poi un ragionamento più ampio che investa anche la politica. No, sembra non esserci, esatto, no? Presidente del Consiglio il giorno dopo la marmolata dice non accadrà più, ma non perché si siano prese misure. Dall'altra, appunto, ci sono tutti i consigli su come comportarsi bene. Bisogna comportarsi bene, dipende anche un pochino, in misura molto minore, da ognuno di noi, nel senso che bisognerà cambiare le abitudini, no? Dopodiché però le abitudini devono cambiare anche nel modo di produrre le cose, nel modo di produrre energia e così via. Queste sono cose che passano per un enorme ripensamento delle politiche pubbliche, e le politiche pubbliche le fanno i governi, le fanno gli enti locali possono premere sui governi nazionali sociali e sull'Europa e così via. La notizia di ieri è che la tassonomia europea, cioè le cose che sono finanziabili dall'Europa, che riguardano l'energia, prevedono anche il nucleare e il gas. Ecco, non è la strada migliore. È vero che lo prevedono per una fase, diciamo così, no? Per una fase intermedia di transizione, dopodiché non è il messaggio migliore. Senza dubbio tutti noi, diciamo così, dovremmo anche cominciare a ragionare su cosa chiedere ai governi, cioè ci vorrebbe anche una domanda dalla società italiana, una cosa che per adesso e fino a oggi non c'è stata molto, mentre invece in altri paesi questa spinta ambientalista costringe anche i partiti di centro, insomma costringe anche quelli che non hanno l'ambiente come faro ad agire più speditamente di quanto non si faccia qui.